La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 110. Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. L'articolo 110 precisa ancora meglio i rapporti fra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia, perché come sappiamo il nostro impianto costituzionale si ispira alla divisione dei poteri, per cui abbiamo i tre classici poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, e poi abbiamo gli organi di garanzia, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. Quindi in questo quadro la magistratura deve essere autonoma e l'autonomia della magistratura viene garantita mediante il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno, cioè un organo composto in ampia maggioranza da magistrati che prende le scelte fondamentali sulla vita dei magistrati, e quindi questo a garanzia della loro indipendenza e autonomia. Ma tuttavia i magistrati sono pubblici dipendenti e quindi comunque sono le dipendenze del Ministro della Giustizia. L'articolo 110 specifica ancor meglio questo rapporto e spiega che spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Quindi la magistratura è sì al di fuori dell'influenza del governo, ma tuttavia le misure operative concrete spettano al Ministro. Ovviamente negli anni di vita repubblicana si sono creati notevoli attriti su questo punto, perché non è facile poi stabilire concretamente cosa spetta al Consiglio Superiore e cosa spetta al Ministro, e quindi è intervenuta anche la Corte Costituzionale spiegando ad esempio che i servizi relativi alla giustizia comprendono l'operato degli uffici e dei magistrati e che anche l'assegnazione delle unità e la pianta organica può rientrare nelle competenze ministeriali.